EIAR, Ente Italiano Audizioni Radiofoniche. Dagli studi di Radio 24 in Milano trasmettiamo ora la trasmissione 1, nessuno 100 Milan. Ascoltatela, è una trasmissione italianissima. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. In realtà, cari ascoltatori, dalla ridotta di Viale Monza, ma va bene lo stesso, eccoci qua, uno, nessuno, 100 Milan con voi fino alle 10.30 anche oggi con tutta la nostra redazione sparpagliata ma unita. Da Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli, dall'Alpino in regia, da Luca Cremonese che ci aiuta oggi anche lui lì in regia, insomma ci siamo per tenervi compagnia fino alle 10.30 con le nostre provocazioni, con i nostri stimoli che vi voglio lanciare oggi. Ne ho tanti, quindi preparatevi, tenete pronti gli sms, whatsapp, se volete scriverci al 349 238 6666, se volete chiamarci alle 800 24 00 24. Oggi avremo ospite Oscar Farinetti tra poco, perché ha lanciato questa idea della patrimoniale, il prelievo forzoso. Io sono un po' sobbalzato effettivamente sulla sedia quando l'ho sentito, ma ci spiegherà il modo per ripartire. Ma ho tante cose da dire, tanti stimoli, appunto come vi preannunciavo. E allora, Alpino, è il momento di partire col solito entusiasmo. Vai! Enthusiasm about the future. I'm too afraid to use the phone, I'm too afraid to put the light on, I'm so afraid I've lost control. Allora, voglio partire da un consiglio, se me lo permettete. Sposo in pieno ciò che Marcello Veneziani oggi scrive sulla Verità in prima pagina. È il consiglio di sopravvivenza. Perché io so che ci sono tante ansie, tante preoccupazioni. Mia suocera Azalea, che saluto, mi inonda di messaggi, mi dice cosa succederà, quando ripartiremo, cosa faremo, cosa succederà d'estate, quando usciremo, quando ci rivedremo. Preoccupazioni legittime da parte di tutti, da parte degli italiani. Allora, il consiglio di Marcello Veneziani, consiglio di sopravvivenza, è questo: spegnete la TV. Spegnete le TV in cui si parlano di questa cosa H24, cioè praticamente tutte, no, non è vero tutte, però insomma, attenzione, scrive Marcello Veneziani, attenzione, attenzione, il contagio si chiama Covideo, non Covid, Covideo, ed è una derivazione diretta del virus che sta devastando il mondo. Non uccide, almeno non direttamente, ma produce patologie terribili che intaccano il cervello, il fegato, la bile, l'animo, il morale delle persone. Il contagio avviene per via oculare e auditiva, si trasmette su tutti i canali video. Quando ci sono programmi, dibattiti, servizi, TG dedicati al virus e contorni, ben oltre lo sfinimento del pubblico. E guardate che Veneziani scrive, non sto scherzando, non è il momento di scherzare, vi sto consigliando una terapia autarchica, senza bisogno di andare in farmacia, di farsela prescrivere da alcuno, semplice ma efficace, la nostra fase 2. Quella dalla fuga stando in casa, dal distanziamento sociale, dal televirus. Spegnete, cambiate canale, meglio i cartoni animati, le previsioni del tempo. E ancora scrive sempre sulla Verità Marcello Veneziani, non dico di spegnere il video che è la vostra zattera di salvezza, ma fatevi una programmazione alternativa che escluda tutto quanto ruoti attorno al contagio. Basta vedere pure in video le mascherine, basta le immagini tremende, basta i programmoni infiniti in cui tanti onniscienti ci spiegano cos'è il virus, cosa fare, cosa non fare, chi sono i buoni, chi sono i cattivi, se avremo l'estate oppure no, se il nonno potrà uscire se accompagnato dai genitori, se andremo in vacanza o se sarà una gita intorno al condominio, una cabina con lettino in portineria. Non se ne può più, e sposo in pieno, non se ne può più, cominciate a salvarvi così. A proposito di cabina, ragazzi, ma perdonate il sorriso, ma le foto che girano sui giornali delle spiagge in cui dovremmo stare rinchiusi in cunicoli di plexiglass, Ma io dico, ma voi, cari ascoltatori, andreste in una spiaggia rinchiuso in una scatola di plexiglass? Cioè, ma va bene, sarà la fase 2, sarà la ripartenza, sarà la nuova vita post-virus, ma io dico, ma va bene tutto, ma dai, cioè, pure in spiaggia a contatto col mare in plexiglass, ma andate in montagna, non so cosa dirvi, ma no, non andate al mare, cioè rinunciamo per un anno, no, dai, in plexiglass non si può stare, cioè in spiaggia, chi rinchiuso in plexiglass non si può stare, non so cosa ne pensiate voi, ma non si può stare. Quindi salvatevi, non guardate più i programmi che parlano di questo, ovviamente ascoltate la radio, ecco, piccolo spot autarchico, questo ci sta. D'altronde le tante domande ci sono, ma non ci sono le risposte. E sapete perché? Io la chiamo, dico che è una sorta di colpa della politica delle baruffe chiozzotte, no? Come la definisco io. Cioè colpa della politica della quotidianità, in cui si vedono le beghe quotidiane su quisquiglie, su cose inutili. Ma chi segue la politica da anni nota che manca proprio una progettualità in tutti i campi. Cioè, avete mai sentito parlare di un piano per l'approvvigionamento energetico, che ne so, per i prossimi 60 anni? O un dibattito sulla scuola che dovremo costruire nei prossimi 30 anni? O su quale settore industriale investire per il futuro, per i prossimi 50 anni? No! È la politica delle begucce da quartiere, delle polemichette del lunedì che il martedì cambiano, il mercoledì ancora. E così ci troviamo in una strana sensazione di mancanza di programmazione totale e ci troviamo con 270 persone chiamate, oggi le contava anche Repubblica, come ieri citavo sulla stampa, 270 persone tra varie task force che sono chiamati su Repubblica, i soldati semplici del Premier Conte, che devono decidere, ma in realtà non si sa ancora bene quale sia una strategia, uno straccio di strategia, lasciatemi dire, per la ripartenza. La scuola quando ripartirà non si sa, ma come ripartirà a settembre? Boh, ci sono investimenti per capire come si partirà in maniera precisa? Non si sa. La stagione estiva del turismo? Boh. L'agricoltura, tra poco ne parleremo, ne abbiamo parlato anche ieri, chi raccoglie i prodotti? Ma non si sa. Le aziende, sì, aprono in deroga, silenzio assenso, ma qual è la strategia per il futuro? Non si sa. Per il momento vaghiamo, intanto siamo i primi ad aver chiuso tutto e siamo gli ultimi a ripartire, mentre gli altri paesi, non so se sono più pazzi di noi, Francia, Germania, Spagna, riaprono e pare abbiano una strategia. Non lo so. Io intanto voglio salutare Oscar Farinetti. Buongiorno. Buongiorno, ciao Oscar, grazie buongiorno. Di essere qui. Allora, voglio partire con Oscar Farinetti da due elementi che ho colto sui giornali. Oggi Mattia Feltri sulla stampa sottolinea come ieri il ministro Boccia abbia definito amanti del Dio denaro quelli che vogliono ripartire. Scrive Feltri: non la sentivo dalle assemblee della quarta ginnasio, il Dio denaro. In realtà, come ci dice il Fondo Monetario, tra poco saremo tutti credenti non praticanti, cioè il Dio denaro non ci sarà e ci sarà gente che morirà di fame e disoccupazione. Ecco, il Dio denaro. Oscar Farinetti ragiona molto su questi elementi. Davvero dobbiamo pensare che chi vuol ripartire ama il Dio denaro o semplicemente bisogna portare a casa la pagnotta, come si suol dire, Farinetti? Io ragiono da imprenditore. Chi fa impresa e chi lo fa in maniera coscienziosa pensa che il denaro sia uno strumento come qualsiasi altro strumento per poter far fronte ai propri impegni, per poter fare sviluppo, per poter pagare i propri collaboratori, e in questo momento è quello che manca. Perché un sacco di imprese si sono trovate improvvisamente in una crisi di liquidità bestiale dovuta al fatto che non incassano. Penso che sia piuttosto naturale e facile da capire anche a chi non fa impresa: non avendo entrate non si riescono a pagare i debiti, e questo crea un effetto domino enorme, nel senso che per esempio un ristorante chiuso da due mesi fa fatica a pagare le forniture che aveva ricevuto prima, magari questo dramma lo ha colto in un momento di sviluppo, che aveva comprato il balcone nuovo, la cucina nuova, voleva fare delle cose nuove, e questo l'ha mandato in crisi. Lei ha perfettamente ragione nella descrizione che ha fatto un attimo fa, siamo in una palude politica dove non c'è una visione, dove non c'è un progetto, dove si frammentano le decisioni in mille teste, ognuno dice la sua, ma soprattutto il dramma nostro è che la nostra politica è perennemente in campagna elettorale. E qui si vede, di fronte a questa grande emergenza. Alla ricerca di nuovi consensi. Di fronte a qualsiasi domanda, prima di formulare la risposta, oggi un politico, non tutti, ma diciamo molti, tendono a pensare adesso, in base a quello che dirò, mi creerò dei consensi oppure no. E questo non va bene. No, ma è chiaro, io lo dico da anni, cioè, di paraculismo, sì. No, cioè, quando si vedono tutti i giorni sui quotidiani inutili chiacchiericci, e lo dicevo da anni, e si vede una mancanza di visione, ecco, poi quando sei di fronte a una cosa così tragica, la mancanza di visione si sconta in maniera totale, cioè c'è una mancanza di visione, questo è il punto. Però, ecco, Oscar Farinetti ha lanciato questa proposta, dicendo anche, magari troviamo dei nomi un po' suadenti, un po' più persuasivi, perché se uno dice patrimoniale o prelievo forzoso stile Giuliano Amato 92, questa veramente mi ha fatto sobbalzare sulla sedia. Allora, sì, allora come la vendiamo questa cosa? Ha fatto sobbalzare persino me, perché non avevo mai pronunciato quella parola, però lei sa, come fa il giornalista, sa che c'è questa categoria dei titolisti, perché poi se legge l'articolo sotto, il giornalista ha scritto anche bene, ha scritto le cose che ho detto. Il problema è che poi gli articoli vanno in mano ai titolisti, i quali anche loro cercano le formule di titoli per attrarre lettori o per essere ripresi su internet. Per cui io non sapevo neanche che Amato avesse fatto un prelievo forzoso nel 92, si figuri. Ma oggi si va alla ricerca. Beh, dai, questa è storia, sì, però sì, il prelievo forzoso. Sì, sì, va bene, ma non lo sapevo. Sapevo di una patrimoniale, ma il termine prelievo forzoso. Oggi si va alla ricerca di queste parole tabù che fanno sobbalzare, e grazie al titolo viene ripreso, perché poi addirittura oggi assistiamo al fatto che i giornali cartacei scrivono le robe per essere ripresi dal mondo online, no? Una cosa molto strana, cioè, l'online che vive per poter essere ripreso dal mondo online, perché non vivi dei numeri dei giornali venduti. Vabbè, quindi fregato dal titolo. Fregato, guardate, io di fronte poi... Però la proposta ce la vuole. Ma sa, Milan, allora, di fronte alla domanda, lei immagina una domanda di... Allora, e se i 200 più 200 miliardi, che poi abbiamo scoperto tutti essere una garanzia per un debito anche a breve di 6 anni e con interessi anche altini, perché oggi si riescono a ottenere quattrini per chi è patrimonializzato a cifre più basse, ebbene, se non arrivano questi 400 miliardi, ed è probabile che a breve non arrivino, di soldi certamente non arrivano in tempo per sanare alcune situazioni di difficoltà. Se l'Europa non si mette d'accordo, e non si mette d'accordo perché magari succede che un deputato olandese magari trovano tanto giusto fare un debito comune con un paese dove i commessi del Parlamento sono pagati il doppio di un deputato olandese, magari gli tira le balle fare un debito comune, e sotto un certo profilo possiamo anche capirlo. Se non arrivano questi soldi, che facciamo? E la mia risposta è stata proprio una risposta semplice, credo anche onesta. Si fa come fa una famiglia che è in difficoltà, che però ha dei quattrini da parte di risparmio. Cosa fa? Prende questi risparmi per sanare i propri debiti, per risolvere il problema. In un'emergenza si fa così. Il nostro paese, che ha una delle cose belle che ha 4.117 miliardi di risparmi. Di risparmi. Questa è la verità. Siamo il paese che ha più risparmi di tutti. Ebbene, però il nome suadente rispetto a patrimoniale non l'ho ancora capito, vuol dire prendere una percentuale di questi risparmi. Allora, intanto attenziamolo, quella che potrebbe essere l'operazione, sempre se non arrivassero altri quattrini, perché se arrivano gli altri, per meglio, se succede come la Svizzera, che ha già dato soldi alle imprese, Ah, noi abbiamo una consorziata americana, Italy USA, c'è già arrivata la delibera, dobbiamo solo finire l'autocertificazione e ci manderanno i quattrini, cioè degli altri paesi è tutto un po' più semplice. Viva la burocrazia in Italia! No? Allora, sì. ho cercato di immaginare che se noi avessimo il 2% dei risparmi privati, 2%, allora stiamo parlando di una situazione finanziaria in cui certe famiglie perdono 6-7% al giorno dei propri risparmi, sì, perché la borsa va su, va giù. Allora, il 2% vorrebbe dire 81 miliardi, abbiamo una dose di denaro piccolina, comunque già discreta, per poter cercare di dare alle imprese per rilanciare l'economia, sì, e i posti. Quindi di 2% sì, chiaro, dire, chi ha poco, un ricchissimo che ha 500 mila euro in banca dovrebbe mettere 10 mila euro, che ha soltanto 5.000 euro in banca dovrebbe mettere 100 euro. Vabbè, se il 2% è proporzionale, è chiaro. Però come la chiamiamo? Perché come la chiamiamo se non è una patrimoniale? Adesso, guardi, ti ragiono e poi la dico. Ma da oggi ci sono questi nomi tabù. Il giornalista come lei dovrebbe essere attento a questi nomi tabù. No? Ci sono dei nomi tabù che sono tipici. Uno è patrimoniale. Patrimoniale tabù. Non so, per esempio, quando io ero giovane e facevo il 68, il nome tabù era socialdemocratico per quelli di sinistra come noi, cioè se tu dovevi dire a uno che era dice sei un socialdemocratico, era terribile. Ai tempi di Pericle la parola che non si poteva dire era amore nei confronti della moglie, perché l'amore allora era soltanto tra omosessuali, ma la parola amore anche in campagna, nelle Langhe, nel dopoguerra non si poteva dire della moglie, perché ci sono queste parole tabù. Infatti in piemontese non esiste la parola amore, ci sono delle parole, il termine comunista negli Stati Uniti è ancora abbastanza tabù, tabù. Oggi, no? E quindi secondo lei patrimoniale è un po' la parola tabù. Patrimoniale e MES. MES. Ecco, a proposito del MES, le volevo chiedere, lei i soldi del MES li prenderebbe, siccome ci hanno detto che sono tutti slegati dalle riforme, cioè non è il sistema Grecia, il sistema Portogallo? Io prenderei qualsiasi quattrino che ci diano in questo momento. Ricordo sempre che siamo in emergenza e perdere le giornate, le settimane, i mesi su questi nomi tabù mi sembra veramente una follia. Quindi li prenderebbe. Ho una domanda. Però una domanda, Farinetti, importante su questo, perché ieri ci ha contattato un ascoltatore della provincia di Cuneo, provincia che lei conosce molto bene, dire io a 52 anni sono tornato a zappare, letteralmente, ci raccontava questo mentre in una vigna attorno a dei rumeni che lo cazziavano anche perché i rumeni erano in gamba, lui invece era di primo pelo, ma è tornato a zappare, perché allora c'è questo grande dibattito, chi va a raccogliere i prodotti della terra adesso, devono andare i migranti, o meglio gli ex irregolari che andrebbero regolarizzati, stranieri, o devono andare gli italiani, deve andare chi percepisce il reddito di cittadinanza? Lei come la vede questa? Deve andare chiunque abbia voglia di lavorare. È anche un tema di sentimenti, no? Abbiamo dei sentimenti prevalenti negativi, di sfiducia, di incazzatura, passiamo la giornata a lamentarci anziché darsi da fare. Deve andare chiunque abbia voglia di lavorare. Oggi, ieri ho sentito a notte tarda in televisione due giovani meravigliosi del sud, un ragazzo e una ragazza, dice noi abbiamo reddito di cittadinanza, però noi andremo volentieri a lavorare domani mattina anche in campagna, anche gratis, per evitarci del fatto che prendiamo 670 euro per due, che insomma diventa una robetta discreta che riusciamo anche a vivere, ma andiamo volentieri a lavorare in campagna, se si chiamano. Il tema è organizzare questa rete, e quindi tutti, da chi ha il reddito di cittadinanza agli immigrati, a regolarizzare degli immigrati con dei contratti stagionali ad hoc per fare questo, è un'emergenza. Nelle emergenze bisogna. Quindi lei lo farebbe quello, certo, anche della regolarizzazione. Ma certo, bisogna cercare di trovare tutti i metodi possibili, intanto per non fermare l'agricoltura italiana. Qui al nord non abbiamo problemi enormi, soprattutto qua nelle Langhe, è un'agricoltura ricca, ma al sud hanno un problema enorme. Il sud è una fucina di prodotti agricoli straordinari, non posso immaginare che non ci siano i pomodori Pachino o le carote di Polignano a Mare. questi prodotti straordinari che il Sud ci dona, e quindi dobbiamo gestirlo in emergenza. Quindi mettiamo, adesso non dico che facciano un'altra task force dedicata a quello, ma no, io no, credo no, che sono già 250 adesso su questo tema per una giornata, magari anche mezza giornata, una soluzione la trovano, tirano sì. fuori quattro regole. Sì, temo che il problema dell'Italia sia che non manchino le persone che si mettono lì a ragionare. Ora vorremmo avere delle strategie, come tutti, vorremmo avere delle risposte, delle strategie concrete. Allora, in attesa di capire come chiameremo in alternativa patrimoniale. Ecco, si metta lì a ragionare bene al nome, poi ce lo dice. Nome la richiamo. Va bene, intanto io la ringrazio, Oscar Farinetti. Grazie a Oscar Farinetti. C'è da dire che io prima di andare in pubblicità voglio leggere invece quello che ha scritto oggi Michele Serra, che fa un po' il paio con Mattia Feltri, che parla del dio denaro citato dal ministro Boccia, e il ministro Boccia ha detto il dio denaro, e Mattia Feltri sobbalzando dice un'espressione davvero che non sentivo dalle assemblee della quarta ginnasio. Oggi invece Michele Serra sulla Maca, Repubblica, fa un pezzo durissimo contro la Lombardia, ma anche non tanto politicamente, certo attacca la Lombardia dal punto di vista della classe politica, ma soprattutto i lombardi, cioè per esempio anche me, comunque i lombardi. E allora voglio lanciarvi questo spunto di Michele Serra perché riflettiate e ci chiamiate per dire la vostra. Scrive a un certo punto Michele Serra: si devono spendere due parole di compassione per i dissennati fratelli lombardi, ai quali la religione del lavoro è costata in questo caso la vita. Il popolo del non si chiude, brava gente, però monoculturale, confindustriali lillipuziani, i magut, i manovali bergamaschi, tal quali i padroni delle acciaierie, lavoro, lavoro, lavoro, il resto è solamente un impiccio, una deviazione dalla via maestra. Brava gente, insisto, ne conosco i sorrisi franchi, lo sguardo chiaro, le famiglie premurose, le case lustre, i capannoni operosi, ma già 20 anni fa, decollando da Orio al Serio, il cielo padano era una palude di smog, un'infezione manifesta. C'è una pagina tremenda di Ian McEwan, grande scrittore inglese, su come è brutto il cielo di Lombardia quando è brutto, l'aria come una discarica, l'acqua come una discarica, la terra come una discarica, la vita intera immolata come un capretto sull'altare della produzione. I lombardi si sono dati i governi che volevano, li hanno votati e in maggioranza hanno sempre, dico sempre, ignorato ogni possibile critica o correzione alla religione del profitto. I conti devono farli loro e tra di loro. Avete capito, cari ascoltatori? Così Michele Serra scrive della Lombardia e dei lombardi. Beh, dobbiamo mettere noi una patrimoniale per tutti i soldi che sono stati rubati in Italia, questa è la soluzione, far pagare sempre più fessi e più scemi, poi ci stupiamo che la gente porti i soldi all'estero. Ma io che sono in rosso sul conto corrente, li ricevo i soldi col 2%? Solo la TV o anche le radio bisogna tenere spenti. Eh no, non so se c'è un altro messaggio da WhatsApp dei nostri amici al 349-238-6666, però no, le radio vanno rigorosamente tenute accese tutte su Radio 24, vero vestagliona manera? Eccoci qua. Buongiorno. Mi ha lasciato molto perplesso l'editoriale, l'articolo di Michele Serra. Hai visto? Ma perché Lombardo. No? Secondo me, Sì, ma il problema è che lui parla come se tutti, io sono nato a Milano, ma lui parla come se tutti i lombardi fossero ricchissimi che non pensano ad altro che ad accumulare denaro tramite il lavoro, ma per no, la maggior parte no, lombardi, non l'ha detto, però no, dediti, ho capito, ma la, dediti certo, al lavoro, no? Il sottotesto è quello, ma invece in verità tanti lombardi, quasi tutti lavorano perché hanno necessità di guadagnare il necessario per vivere, che non sono stipendi sì, altissimi dovuti al lavoro, no? E che si fa ininterrottamente per accumulare patrimoni. Sì, devo dire, io lo leggo sempre con piacere, però questa volta lo devo dire, è un termine un po' odioso, ma proprio questa è una posizione da radical chic, ecco, la dico. Questo oggi è una marca un sì, da condivido, radical chic. Condivido anch'io, chic. Condivido anch'io. Sarà lì nella sua Valtidone, nella sua villa, a fare, a seminare le patate novelle e così a pontificare sui lombardi, va bene. Dai, allora Leonardo, ti voglio accogliere con un WhatsApp che mi hai mandato tu, devo dire, sì, che però circola tantissimo, è uno dei migliori effettivamente, che un po' riassume secondo me lo spirito che molti italiani hanno in questo momento. Permetteteci questo momento di breve sorriso prima di tornare seri con il nostro ospite. E che, lo vuoi descrivere tu questo WhatsApp? C'è stato il concerto di Bocelli, tra l'altro, non è forse diciamo un caso che è una sintesi del mio stato d'animo, ma credo anche sì, di quello di molti altri italiani, diciamo così. Vogliamo sentirla? Vai Alpino. Funzionario di polizia locale, c'è una persona qui sulla sinistra, è poco più avanti, sta attraversando un cancelletto, questo, sta correndo. Era. Calzoncini azzurri, magliettina verde. Non era questo che dovevamo mandare in realtà. Era l'acuto del Nessun Dorma con versione nuova. Vai Alpino. Mi sono rotto lì i coglioni. E tra l'altro sarebbe anche interessante conoscere l'autore, perché non ha una brutta voce. No, secondo me è un cantante vero, è un tenore vero. È un tenore vero. Vabbè, insomma, gira molto su WhatsApp ed è un po' un sunto della situazione. Però, prima di parlare delle altre cose, perché ti voglio sottoporre tra poco alcune cose che tu ieri già, siccome sei un visionario, io l'ho sempre detto, hai già anticipato, ma teniamole lì, perché prima voglio dare la precedenza a un ospite. Allora, oggi il Corriere della Sera titolo di prima pagina in apertura sul tema degli anziani, le residenze sanitarie assistite dove sono molti anziani e dove si stanno muovendo a questo punto i PM. Il titolo è Case di riposo, offensiva dei PM. Saluto Luca Degani, che presiede UNEBA Lombardia, cioè un'associazione di categoria che riunisce oltre 400 case di riposo. Buongiorno Degani, grazie di essere qui. Allora, io qualche giorno fa ho detto, quando vedo i PM muoversi in Italia, non lo so, sono un po' sfiduciato, perché bisognerà capire il nesso causale, capire se i morti sono davvero per coronavirus, se è stato fatto tutto. Però è vero che lei già da un po' aveva lanciato questo allarme, o no, Presidente Degani? Guardi, io credo che quando arrivano i PM facciano il loro mestiere, lo facciano bene, sì, è giusto che accertino e quant'altro. Quello che mi sento di dire, che forse abbiamo detto fin troppo dall'inizio, sembra un po' un mantra, non è che il Covid non sia infettivo per tutti, questo credo che sia un dato di fatto su cui i numeri poi impareremo a vedere quanto sono alti. Il Covid è infettivo per tutti, ma è letale in maniera diversa rispetto all'età che una persona ha e rispetto alle comorbidità, alle malattie di cui una persona è portatrice. In RSA ci sono persone grandi e anziane con tante patologie croniche, e grazie a Dio sono sempre più anziani, nel senso che io ho 50 anni, rientro nella fattispecie dei milanesi eccessivamente lavoratori di cui era parte prima dello spettacolo, ma il tema serio è che fin dall'inizio si sapeva che in RSA, se fosse entrato il Covid, sarebbe stato un grave problema. E fin dall'inizio probabilmente si è anche provato ad arginarlo con qualche errore, sembra di assumere responsabilità, con qualche distrazione. Le faccio un esempio sciocco. Per esempio, voi vi concentrate su questa ordinanza della Regione Lombardia dell'8 marzo, no? Mi pare che sia un momento... Che secondo me su questo si è concentrato un po' tanto la stampa, ma io non sono convinto che Regione Lombardia, vi faccio usare un termine milanese che rende bene, Regione Lombardia non è piena di pirla, nemmeno a livello, ma questo tanto nessuno, meno, nessuno tanto lo meno pensa, a livello voglio di dire. E ma lei l'accento mio non vale, quindi potrebbe, lo direbbe perché siamo conterranei, ma nemmeno a livello di giunta, io non credo che la 2906 abbia creato un decesso in più. Hanno voluto fare la commissione d'inchiesta, fanno bene, perché è giusto che vadano ad autocontrollarsi. Però spieghiamolo, cioè spieghiamo, quell'ordinanza, secondo alcuni organi di stampa, dice trattate quelli col Covid tenendoli nelle case di riposo. No, quello non l'ha detto la 2906, l'ha detto la 3018 di un po' di tempo dopo. La 2906 è venuta fuori in maniera molto, diciamo, evidente, perché dice una cosa che è il segno probabilmente di un atteggiamento poco attento all'anziano. Per la 2906 dice: gli ospedali sono sotto stress, negli ospedali c'è troppa gente, eravamo all'inizio di marzo, le terapie intensive scoppiavano, devo riuscire a svuotare le strutture ospedaliere per acuti, le mando in strutture extra ospedaliere, tra cui anche le RSA, che sono strutture per anziani. Il punto è questo, Presidente Degani, adesso poi verranno i magistrati, questo, eccetera, però è chiaro che un po' il tema che io da giorni dico è come quando si individua un positivo che non è grave in ospedale, quindi si dice vai a casa e stai isolato in quarantena. Adesso ci iniziano a dire che le case sono i luoghi, i nuovi lazzaretti, tra virgolette. Allora, le sembra giusto mettere un anziano non grave in una residenza sanitaria assistita dove non si può muovere, dove è a contatto con altri anziani, dove evidentemente contagerà altre persone, immagino. E infatti posso girargli, l'errore è stato pensare di mandare persone Covid positive a bassa intensità assistenziale anche, non solo, anche in strutture per anziani. Fermi un secondo solo però, perché sennò poi sembra che siano stati dei disgraziati. Anche in strutture per anziani dove subito hanno detto però in strutture autonome, sia dal punto di vista strutturale che organizzativo. Ma l'idea è che usare le RSA, seppur con tutte le tutele del caso, per metterci Covid positivi, non è stato un problema di avere creato infezioni, ma è stato, ed è ancora il tema, di non comprendere che le strutture per anziani sono come un coccio che se prende un colpettino nel momento dell'epidemia Covid ci distrugge, ma non si distrugge l'RSA, che è un luogo in cui io accolgo un anziano negli ultimi anni della sua vita e devo accoglierlo in maniera, diciamo, relazionale. Capisce, Presidente Degani, adesso ripeto, non siamo noi i pubblici ministeri, però mettete un giovane di 35 anni, lasciatelo a casa è un conto, mettete un novantenne che è Covid positivo, anche se ha pochi sintomi, a fianco ad altri 85enni, 90enni, cioè, come dire, che se non altro è una mancanza di visione abbastanza... Non hanno detto di mettere il novantenne, anzi, le poche cose che sono successe, perché parole dell'assessore che dice soltanto in 15 RSA abbiamo messo persone di questo tipo, ma non hanno messo gli anziani, hanno messo i giovani, perché la dimissione ospedaliera non era sugli anziani, era sui giovani. Quello su cui bisogna, e davvero vorrei usarla, bisogna avere un attimo maggiore attenzione, è gli anziani in RSA, se si positivizzano in questo momento ormai da più di un mese non hanno l'accesso alle strutture ospedaliere. Cioè, un anziano che già vive in RSA oggi, se diventa positivo, pur con tutte le attenzioni del caso da parte degli operatori di PIE e quant'altro, signor, questo virus entra comunque ed è entrato ovunque, quando diventa positivo non ha accesso alle strutture ospedaliere. Perché sono nate le cause? O guarisce lì o muore. Questa ecco, in questo momento quello che viene detto, guarisce lì o muore, in qualche modo bisogna fare in modo o di portarlo fuori, quindi o di creare una forma di tutela per cui io sui Covid positivi anziani li prendo in carico all'esterno, oppure se questa è una scelta che in questo momento non è stata fatta e non vuole essere fatta, su questo c'è una delibera che dice se l'anziano è molto anziano, oltre 75enne con comorbidità, non portatelo in struttura ospedaliera, questa è la 3018, ma quella delibera, che ha anche una sua logica, perché dice se lo porto in struttura ospedaliera già in una situazione di crisi, va ancora più in crisi. Però poi la delibera prosegue dicendo saranno gli ospedali ad andare in RSA. In questo momento invece, oltre a mandare i PM dove sta loro ritengono più opportuno, sta succedendo? No, non sta ancora succedendo, perlomeno non abbastanza. Questo. Mandiamo gli infettivologi, gli pneumologi, mandiamo gente che sa curare gli acuti. Sì, sì, ma il dato di fatto, Degani, adesso lei si occupa della Lombardia, ma in tutta Italia, basta leggere i giornali, i dati, i numeri sono spaventosi, ci sono case di riposo, come vengono chiamate, dove il 50% delle persone sono decedute. Adesso vai a sapere il nesso causale, appunto, sono decedute casualmente adesso che c'è il Covid, per quello, no, per altre patologie. Nessuno di noi deve prendere in giro nessuno, decedono perché il Covid entra. Una volta che il Covid entra, un domani bisognerà capire di chi è la colpa perché sia entrato, e su questo è giusto che ci agisca la magistratura ed è giusto che le case di riposo dicano abbiamo usato o non abbiamo usato i dispositivi di protezione. Sì, sì. Ma una volta che è dentro bisogna fare in modo di aiutare chi sta dentro. Sì, anche perché ci siamo detto che nella delibera c'è scritto salute, che l'ospedale deve entrare nell'RSA, lo facciano. Comunque facciamo così, Presidente. Il tema è questo. Facciamo così, fermiamoci per il momento, ci ha dato tanti stimoli e tanti spunti, ma ci sentiamo nel corso delle trasmissioni nei prossimi giorni, perché in questo tema degli anziani, grazie Luca Degani, questo tema degli anziani si è spesso detto, Leonardo, insomma è impressionante vedere un'intera generazione. Oggi Antonio Scurati ne scrive sul Corriere della Sera, la generazione degli anni 40, quella che ha ricostruito dopo la guerra, che adesso non tutta, ma sta cadendo rapidamente. Impressionante, sì. Allora, Leonardo, io ti volevo, ecco, qui far partire, dico l'Alpino in regia, un altro servizio di Agorà. So che sono elementi che ti stimolano tantissimo. Oggi sono partito dicendo che Gianluca Veneziani propone di spegnere tutti i programmi televisivi come forma di salvezza, come hai detto anche tu. Abbiamo già detto noi anche i giorni scorsi, insomma, no? Che c'è questo grande racconto, grande romanzo che viene costruito dalle televisioni. Però anche... E c'è questo nuovo format, no? Questo nuovo format. Senti Agorà con la rincorsa con un drone. A sinistra. È poco più avanti, sta attraversando un cancelletto, sta correndo. Calzoncini azzurri, magliettina verde, con cappellino bianco, sta scappando, sta correndo. Sulla sinistra. Si fermi, cialdrone! Sta correndo, sta scappando letteralmente. Si fermi, cialdrone! Hai sentito, Leonardo? Si fermi, cialdrone! Cialdrone, ma perché cialdrone? Ma io ti denuncio intanto se mi dai del cialdrone. Coi cani, senti i cani. Ma che è? Ragazzi, ma che è? Leonardo, ma che è? Stiamo diventando tutti, no? Poliziotti degli altri, ma nel termine negativo del termine, negativo. Sì. Comunque, senti, sì, qua, perché a noi piace essere così, italiani. Sì, Iena sulla stampa oggi, giornalisti sugli elicotteri per firmare un probabile untore. La prossima volta sparategli, poi però fategli il tampone, almeno per sapere. Comunque ho letto che Barbara D'Urso, leggevo oggi sui giornali, quando è comparso l'elicottero lo share è calato, la gente, no? È questa cosa, no, forse questa stiamo cosa un po' rinsavendo, ma adesso veramente c'è un limite, secondo me, che a volte si supera, è stato superato, bisognerebbe avere un po' di così capire quello che si sta facendo, no? Con tutto il rispetto per la signora D'Urso, però ha senso? Sì. No, ma oggi anche Gramellini in prima pagina del Corriere. C'è qualcuno che comincia a preoccuparmi più dei trasgressori, ed è chi si accanisce istericamente contro di loro. Effettivamente parla proprio di questo nuovo format. Bello, però noi in radio come potremmo farlo? Perché in radio Il tampone in diretta che riguardava i tamponi. Adesso dovremmo trovare. Tu avevi anche proposto il segui cinese per fare soldi. Adesso il segui cinese a distanza forse dovresti fare. Sì. Adesso mi sembra che sarà, anche se i cinesi adesso stanno meglio di noi, per la verità. Comunque, forse potrebbe essere anche ancora adesso il segui cinese in Cina, però. Ribadisco un bel segno Giachetti a Michele Serra. Buona giornata. I lombardi devono fare i conti da soli con i loro innegabili difetti, ma per fare i conti da soli devono iniziare a cancellare il residuo fiscale attivo di 54 miliardi l'anno nei confronti di Roma, dove spero che torni presto Michele Serra, che romano è. Ecco, vedi, vedi, lo sapevo che c'era la rabbia adesso, la rabbia. C'è Licia adesso... che ci chiama da Milano. Lo sentiamo, dimmi, dimmi Leonardo, intanto Licia. No, dicevo solo che rispetto a un articolo di quel tipo qualche risposta è anche normale che arrivi. Ma certo, certo. Sì, perché non ha criticato solo i politici quando poi dopo, e per questi ho letto la parte sui lombardi. Ecco qua, Licia, per esempio, da Milano vuole... Sì. Volevo proprio intervenire perché secondo me Serra non sa più che cosa scrivere e allora fa questi articoletti tanto per fatto un po' una provocazione, da bravo romano, in un momento così difficile che direi che sono quelle cose abbastanza inutili. Io volevo spendere una parola a favore dei lombardi che da sempre, con tutti i loro difetti e con tutti i loro errori, sono dei gran lavoratori e hanno sempre portato avanti l'Italia e hanno dato solo delle occasioni per crearci un posto nell'Europa, Licia, però, e non devo dire, rimanere all'età della pietra con tanti nominativi di Borghi e quant'altri che hanno mantenuto tutta l'Italia mafiosa, l'Italia del non fare, la politica del non fare. E Licia, però Michele Serra, Michele Serra non è che dice... Sicuramente più difficile che non fare, perché facendo sbagli, se non fai non sbagli. Niente. Non mi sente. Licia, prego. Scusi, questo volevo dire. Michele Serra non è che dice che non siano lavoratori, anzi, semmai fa la critica contraria, dice sono pensano solo, solo al lavoro. E lavoro, questo lavoro. Non è assolutamente vero. E i nostri figli sono stanchi di questi come dire luoghi comuni, perché sono stanchi anche i figli settentrionali e i figli meridionali di andare all'estero e sentirsi dire voi italiani mafiosi, ok? Vabbè. E tutto questo è l'unica, forse la Lombardia è un po' il L'orgoglio lombardo, va bene Licia, la ringrazio. Sì. Sentiamo anche Ivan da Milano che così poi Leo vuoi dire... Dovrebbero dirci alla fine se noi lombardi, milanesi anche, pensiamo solo al lavoro o pensiamo solo all'happy hour, perché certe volte sembra che pensiamo solo a quello, certe volte sì, adesso non l'happy capito. Hour lo sogniamo solo, va bene, Ivan da Milano, Ivan buongiorno. Io ho anche l'happy hour sinceramente, però oltre che lavorare è anche l'happy hour, giusto. Mi fa piacere. No, come replica vorrei dire che l'invidia è una brutta cosa, perché a un certo punto... L'invidia secondo lei è quella di Serra? Poi soprattutto anche scrivendo, partendo da Orio al Serio sul cielo di Milano, cioè così brutto che ci faceva Milano per poter partire poi da Orio al Serio. E comunque, diceva era una pagina di Ian McEwan, che è un grande scrittore che ha raccontato questo, sì, ho capito, sarà venuto a Milano, non è che uno se va, su questo, guardi, Ian McEwan sarà venuto a presentare un libro a Milano e poi avrà notato quel giorno di un cielo plumbeo, ogni tanto il cielo a Milano fa schifo, adesso non è che dobbiamo negare questa cosa, no? La scighiera, no? Quella nebbiolina, quel poi plumbeo. Noi, se non mi sbaglio, la locomotiva dell'Italia, allora ben venga la nostra autonomia. Lei dice lì, allora dateci l'autonomia. Esatto, dato che siamo così pessimi, tra virgolette, così lavoratori. Stacchiamoci, lei dice esatto. Stacchiamoci. Vabbè, la Serra, secondo me, adesso tocca difendere Serra, cosa che non voglio fare perché secondo me gli è scappata la frizione in questo pezzo appunto da Radical Chic, ma credo che Michele Serra voglia criticare un po' nell'animo lombardo, dedito solo al lavoro e non dedito ad altro, ha fatto forse una semplificazione, su questo non c'è dubbio. Comunque, Leonardo, adesso è il tuo momento, che dobbiamo dire? Abbiamo scatenato l'ennesima baruffa quotidiana, va bene. Ormai si parla sempre di coronavirus e quindi ho pensato di classificare

Io sono così, sono bravo, bravo, azzardino. Allora, ci ha mandato un WhatsApp, mi ha mandato un WhatsApp Pietro Senaldi, direttore responsabile di Libero, ha sentito Farinetti e mi ha mandato questo WhatsApp, audio, possiamo sentirlo, vai Alpino. Scusa Milan, ma i miei risparmi sono tassati al 43%, devo subire un altro prelievo del 2% per finanziare l'impresa del miliardario Farinetti. Ecco. Si vede che è un 68 e che in Piemonte non esiste la parola amore. Eccolo là. Sai, oggi abbiamo scatenato questo Farinetti questo, contro Libero, Serra contro Lombardi. Ribadisce la mia teoria di fondo, che dal proprio punto di vista ognuno ha sempre ragione, quindi certo, di fatto non esiste certo nessuno che ha torto. Esatto, ognuno vedendo il proprio, la realtà dal proprio particolare è chiaro che non vuole o non vuole fare una cosa. Va bene, andiamo al giornale radio, poi la terza mezz'ora di uno nessuno 100.000 qui su Radio 24, state con noi. Uno nessuno 100.000. E niente, da leoni da tastiera stiamo diventando leoni da balcone. Cos'è? Vi dà fastidio ora la generalizzazione? Allora quando date a noi degli sfaticati, ai napoletani dei ladri, ai siciliani dei terroni, li generalizzate, va bene. Adesso mi dispiace, chi è causa del suo mal pianga se stesso. E niente, così siamo a combattere, siamo a uno contro l'altro, no, non è questo quello in cui vogliamo portarvi. Tra l'altro mi fa notare, caro Leonardo Manera, un ascoltatore, Francesco da Bergamo, che in realtà effettivamente va precisato, Michele Serra di fatto ormai è milanese, è vero che è nato a Roma, ma credo che viva a Milano. Sì, da tanti anni. In Valtidone, ecco, quando ha il suo buon ritiro in Valtidone. Quindi, insomma, sicuramente non è che può essere tacciato di essere il romano distante che accusa i lombardi. Comunque, dai, teniamola lì questa questione, vogliamo parlare di altro. Oh, Leonardo, vogliamo parlare di altro per un po'? So sì, che questo è il tuo... ora d'aria. Ora d'aria. Ora, non so se ora d'aria, ma qualche minuto d'aria. Lo facciamo perché ci ha colpito una sentenza emessa dal giudice del Tribunale di Bologna, Filippo Palladino, che ha dato ragione a un insegnante di una scuola primaria statale della città di Bologna. Questa insegnante, questa maestra, voleva in mensa e vuole e chiede di avere, come dire, compreso il proprio diritto di avere un pasto vegano, perché questa donna è vegana. E invece prima si è rivolta ai sindacati, poi avrà cercato prima con la scuola di risolvere la questione, non ce l'ha fatta, è dovuta andare in tribunale e ha avuto ragione, difesa dall'avvocato Franco Focareta. Buongiorno professor Focareta, ha avuto ragione. Allora, ha avuto ragione, tra l'altro lei dice è una scelta da parte del giudice, una sentenza innovativa, nel senso che c'è forse un precedente, lei dice, in Inghilterra, ma insomma questa signora ora ha diritto ad avere dalla scuola in mensa il pasto vegano. Ci vuole spiegare su cosa si è basata la sua difesa? Di fronte alla situazione concreta nella quale venivano erogati e vengono erogati diverse tipologie di pasti in ragione delle scelte religiose e anche di scelte semplicemente dietetiche, quindi c'è il pasto, diciamo, che rispetta le esigenze dei musulmani piuttosto che dei vegetariani, però veniva rifiutato l'erogazione di un pasto di tipo vegano, ritenendo che già la scuola, il comune che provvedeva all'erogazione dei pasti, avevano già presentato un ventaglio ampio di scelte, che aggiungere ulteriori scelte, insomma, era impossibile, complicava troppo le cose. A fronte di questo io ho ritenuto di inquadrare la vicenda in una prospettiva di discriminazione etico-religiosa, Beh, interessante questo, quindi ci sta dicendo che la scelta da parte del giudice di garantire il piatto vegano vuol dire che è riconosciuto quasi come, ecco, non so, una filosofia, una religione no, non direi, però una filosofia quella del veganesimo. No, io direi anche religione, le leggo testualmente le parole, il passo essenziale della sentenza. Il regime alimentare vegano appare determinato da convinzioni di natura filosofica e religiosa che appaiono meritevoli di tutela nell'ambito dell'ampio riconoscimento del diritto alla libertà di pensiero riconosciuto dalla Costituzione. Perché è importante l'assimilazione a scelte di carattere filosofico-religioso? Perché, diciamo, quando ha assunto la difesa ha impostato la vicenda proprio come un tipo di discriminazione religiosa? Perché i motivi di discriminazione non sono tutti rilevanti sul piano giuridico. Cioè, se il pasto fosse stato rifiutato perché lei è una persona che tifa per la Juve, i tifosi della Juve mangiano solo certo tipo di cibo, non avrebbe ricevuto tutela, perché in tutte le discipline antidiscriminatorie che si sono sempre arricchite nel corso degli anni di motivi di discriminazione rilevanti, hanno una caratteristica, hanno sempre un elenco tassativo di motivi di discriminazione. Quindi io, per poter accedere alla tutela antidiscriminatoria, quindi rivendicare un trattamento non diseguale o non deteriore rispetto ad altri soggetti, devo poter agganciare la mia vicenda concreta a uno di a un motivo di discriminazione contenuto negli elenchi. Certo. Potremmo a questo punto, allora, certo, ma se noi volessimo titolare a questo punto, in base a questa sentenza, il veganesimo è una religione, potremmo, tirando un po' per i capelli la sentenza, affermarla. Tra l'altro, etico-religioso. Sì. Tra l'altro, questo spiega anche perché molti vegani cercano di fare proselitismo, cioè cercano sempre di convincerti anche di diventare vegano. Se è una religione, questo si spiega. Io non sono un vegano e neanche un vegetariano, ahimè. Sono un brutale carnivoro. Ma perché dice ahimè, se ne è convinto? Voglio dire, ci spiegano che facciamo danni al pianeta. Quindi insomma, sì. Soprattutto le giovani generazioni ci mettono un po' sul, come dire, ci puntano un sulla po' ci mettono un po' sulla graticola o sulla griglia. Cerco di ridurre il mio impatto riducendo il consumo di carne molto al minimo. Insomma, comunque però mi sono avvicinato, ho dovuto conoscere insomma queste convinzioni, ed effettivamente per loro è una scelta che attiene a una concezione del mondo, del vivente, della vita. Sicuramente, no, su questo sì, non lo fanno per uno sfizio, lo fanno perché ci credono, e quindi non c'è dubbio. Sono convinzioni che attengono all'idea di vita, di mondo, di esistenza, che non sono molto dissimili come fondamenti o come approccio a scelte religiose. O la religione non presuppone necessariamente un Dio a cui guardiamo, insomma, il buddismo. Bene, non è una, ma quindi, scusi, Dio. Professore, adesso la scuola cosa deve fare? Si deve adeguare, deve fornire un pasto vegano in mensa. La scuola in realtà si era già adeguato, meglio, il comune si era già adeguato, perché i pasti materialmente li fornisce il comune, tant'è che all'inizio si erano rimpallati le responsabilità. La scuola dice deve essere il comune dice deve essere la società che fornisce i pasti, la società che fornisce i pasti dice ma la scuola mi dice quali pasti devo. Quindi c'è stato un po' un rimpallo che è durato un anno. No, il comune, prima dell'ultima udienza di discussione della causa, aveva adempiuto spontaneamente, cioè aveva iniziato ad erogare il pasto vegano. Però lei l'ha voluto far sancire per principio con una sentenza. Perché non era una questione solo individuale, insomma, qui era in gioco una discriminazione, quindi era in gioco l'affermazione di un principio. Quindi abbiamo deciso di andare fino in fondo, rischiando evidentemente, perché il giudice non è che ci avesse dato ragione già. Potevate perdere. Però eravamo convinti delle nostre ragioni e il giudice ha accolto questa prospettiva, insomma, di dare rilievo a questa scelta. Beh, molto interessante, Leonardo, non so se sei soddisfatto. Ma guarda, io ho ripensato per un attimo all'altro anno quando andai in quel ristorante vegano. Infatti, io sentivo che hai speso non so quanto 80 euro per per due melanzane, una zucchina impiattata bene, mi è rimasta impiattata qui quella roba, non sono ancora riuscito a superare il trauma. È una religione costosa, beh, diciamo, esatto, più che altro. La stessa delusione la si può avere in tanti ristoranti stellati. Sì, questo è vero, questo è vero. In cui comunque noi bisogna ricercare qualche sostanza. Noi abbiamo detto, ci occupiamo d'altro, e infatti ci stiamo occupando d'altro. Cito solo per dovere di cronaca che il professor Franco Focareta è una delle persone che è entrata nella task force di Colao, presieduta da Colao. Però, come vede, professor Focareta, non ci stiamo occupando di coronavirus e di ripresa, ecco, ci stiamo occupando, e l'abbiamo chiamata per una vicenda che l'ha vista protagonista come avvocato. Dico solo, nel salutarla e ringraziarla, ha fatto un esempio straordinario. Certo che anche solo per esempio darci dei tifosi della Juve, noi potremmo querelare per molto meno. Però come io sono uno sfegatato interista, quando tratto il tema della discriminazione, sì, a lezione, sì, dico sempre che si potrebbero discriminare gli juventini, perché non è un motivo di discriminazione. Sì. Questo comunque, ci vede d'accordo, scherziamo. Io sono ovviamente un po' emozionato, perché è la prima volta che parlo con una persona che fa parte di una task force, quindi questa cosa mi emoziona veramente. Come ci si sente? Posso chiedere, solo senza entrare nel merito, è una bella gratificazione, immagino, no? Beh sì, è una bella gratificazione, che intanto ha significato che il giorno prima di Pasqua, il giorno di Pasqua e Pasquetta, sono stato al computer, anzi con due computer davanti. Va bene, in riunione, mi sembra giusto. Va bene, dai professore, intanto quando potremo parlare anche della task force, poi ci farà sapere. Intanto noi la ringraziamo, ripeto, Franco Focareta ha difeso questa insegnante e ha avuto ragione in giudizio, che ora avrà il pasto vegano, maestra che avrà il pasto vegano. Dobbiamo andare un attimo a sentire il traffico. Ale 1, nessuno, 100 Milan. Allora, cari ascoltatori, 800 24 00 24, questo è il numero di telefono. Devo dire, io stamattina mi sono svegliato con un sospiro di sollievo, perché è ripresa la scuola, anche se vedo figli che girano metà con i cellulari, metà con i computer. È una scuola un po' così, non, guarda Leonardo, mi getta in uno stato di prostrazione questa mancanza della scuola, che non so descrivere, non so descrivere gli ascoltatori. Tu sei uno di quelli che quando tornerai poi in radio, immagino che prima di giugno tu ci tornerai, dovrai decidere come fare con i tuoi figli, no? Esatto, sì. Li abbandonerò, invece non andranno più a scuola. Devo decidere se il rischio, se il rischio di una denuncia per abbandono di minore, oppure una multa se mi ferma qualcuno in strada, o licenziarmi, potrebbe essere anche una soluzione. Prendo la mia liquidazione, metto via i miei due soldini e vado insieme a Michele Serra in Valtidone a zappare un po' la terra in nome siccome ho saputo che tu hai già svariate denunce, secondo me una denuncia in più o in meno per te non farebbe la differenza. So che ne hai 6 o 7, mi hanno detto, no, anche di cose non proprio lievi, sì, anche di una certa importanza. Prima, tra l'altro, informo gli ascoltatori che credo si sia sentito anche Moito, il mio gatto, che rimasto chiuso fuori in balcone, miagolava e piangeva. Ora non lo sentite più perché è stato acceso il forno. Sto scherzando, attenzione, perché gli animalisti subito si stanno scatenando. Tu hai delle condanne anche per cose che non immaginavo. Sei stato condannato per abigeato e furto di bestiame. Non sapevo che avessi un passato di questo tipo. Abigeato. Va. Senti, Luigi dalla provincia di Monza e Brianza. Buongiorno, Luigi. Buongiorno, è un piacere parlare con te. Mi dispiace solo che non mi svegli più la mattina presto, mi hai lasciato il programma che era talmente divertente. Ti ho lasciato Simone Spezia, dai, insomma, ti ho lasciato in ottime mani. Non sei tu, non ma sei. No. Vabbè, certo, vabbè. Anche se sei riuscito una volta a farmi arrabbiare, te lo dico. Una volta, solo? Porca miseria. Sì, una volta. Vabbè, adesso una se volta, mi dici un modo ti faccio arrabbiare un'altra volta, così cioè, non so, che squadra tieni? Non posso dirtelo. È interista, vabbè. Interista, abbiamo capito. Interista, Juventino. Minimo, minimo ti posso dire. Galli, Tassotti, Costa Curta, Maldini. Vabbè, milanista. Vabbè, vai Luigi, vai Luigi. Allora, volevo solo, prima stavate parlando degli italiani che girano grigliate, mica grigliate, no? Sì. Io mi chiedo, ieri per caso ho visto un servizio, ma non è che ci voleva bisogno del servizio, perché qui in Brianza viaggi nelle stazioni, passi davanti alle stazioni, e lo stesso, è la stessa situazione che c'è. Uso un termine che hai usato tu, Sì. Nel fascismo comunista, no? Ti ricordi quando l'hai usato? Sì, non lo so. Se, vabbè, che cosa vuoi dire, Luigi? Nel senso, di Milano multe, fanno parte multe, e noi vediamo tranquillamente dei personaggi, io non so se sono spacciatori o no, vediamo dei personaggi tranquillamente, impunemente, in giro, in gruppi, no? E vorrei sapere perché a noi, appena esci di casa, ti trovi quello della protezione civile, ti trovi il carabiniere che gentilmente... No, appena esci di casa, no, non è che se esci di casa c'è un poliziotto che ti ferma, esatto. Però... Però tutti i giornali dicono è stata fatta la grigliata qui, è stata fatta la grigliata là... Questo qui, questa signora di Monza è andata a prendere il sole in Liguria, no? Sì. Giustamente, non dico che giustamente, però... E nessuno dice, per esempio, che ci sono gli spacciatori, che ne so, perché si capisce che stai parlando di queste persone come se fossero gli spacciatori, no? Più che spacciatori, perché io a Giussano ho fatto già un rilievo... Chi sono? Un extracomunitario può fare capannello. Questa è la cosa che mi dà... Esatto, questa è la cosa che mi dà molta fastidio. Allora, il tema, Luigi dice, gli extracomunitari fanno capannello e nessuno dice niente. Sì, invece guarda, noi italiani siamo sottoposti. Va bene, no, ma è chiaro, insomma, questa è la posizione di Luigi. C'è da dire che ancora sui numeri, meno male che sia oggi il Corriere, La Verità, stanno facendo emergere quello che qua diciamo da giorni, che smettiamola con questa storia degli italiani indisciplinati. Oggi finalmente vedo le cifre, anche i giornali iniziano a dire, ma ragazzi, ma cosa stiamo dicendo? La percentuale dice che l'1% di quelli fermati, lo 0,5% è irregolare, gli altri sono tutti regolari, quindi gli italiani sono straordinariamente disciplinati nella stragrande maggioranza. Non rompeteci i coglioni, ecco, questo è non lo scrivo nei giornali, lo dico io, perché mo basta, o no, caro Leonardo, sono stato troppo cattivo. No, stavo pensando che diceva l'ascoltatore che ci sono in giro, secondo lui anche spacciatori. Si vede che viene considerato un'attività essenziale, anche quella. Essenziale, cioè lo spaccio può riaprire, lo spaccio può riaprire. Vabbè. Comunque sono momenti di difficoltà. Però io so che ritardo, sai che sei un po' in ritardo. No, ma no, so che è venuto a trovarti il professor Janssen, credo. Allora, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Voglio lanciare un messaggio a tutti. Buongiorno, sì. Professor Janssen, sono psicologo. Ecco, voglio tranquillizzare tutti, perché a parte la pandemia, la crisi economica, i figli che non studiano, il fatto che non andremo al mare, ecco, a parte questo andrà tutto bene. Io lo so perché sono il fondatore del metodo di stare bene, ma bisogna avere la forza in questo periodo di sapersi adattare, di prendere il buono che c'è anche in situazioni difficili. Vi faccio qualche esempio. Se ti tagliano la luce e l'acqua perché non hai pagato le bollette e tu ti attacchi al contatore del vicino, questo è un modo buono di adattarsi. Furto. Pure se per caso trovi il tuo amico con l'amante, lo minacci di andare a dire a tutto a sua moglie se non ti mette 100.000 euro in contanti in un borsone di palestra, questo è un buon modo di adattarsi alla situazione. Poi così, soldi... Oppure, se un tuo collega fa di tutto per farsi notare dal capo, e tu quando si riprenderà il lavoro gli nascondi della droga nel cassetto della scrivania e poi chiami la polizia, no. Questo è un modo giusto di sfruttare la situazione. Però l'altro grande nemico in agguato qual è in questo periodo? È la tristezza. Che magari la tristezza, che quando arriva la tristezza, quando arrivano gli altri che ti raccontano delle cose tristi mentre tu magari invece stai bene. E allora la chiave per non essere tristi è evitare assolutamente di farsi raccontare storie tristi dagli altri, perché sono fatti loro. Allora io voglio darvi oggi qualche consiglio per difendervi dalla tristezza che vi portano gli altri. Perché io dico che la tristezza è come l'elastico delle mutande. Quando parte non c'è più niente da fare. Allora... La prima cosa, vabbè, che poi ne dico solo una perché non c'è tempo, quando sì, torneremo a uscire per evitare la tristezza è questo: quando ti siedi sull'autobus o anche su una panchina del parco, devi sempre dire che il posto del vicino è occupato, per evitare che qualche sconosciuto abbia voglia di chiacchierare e ti comunichi la sua tristezza. Puoi portare sempre con te una bambola gonfiabile e gonfiarla all'occorrenza per occupare il posto. Un'altra idea è avere una sparachiodi e sparare una raffica di chiodini appena qualcuno prova a sedersi. Pum, pum, pum. Potresti trovare qualcuno che insiste, che vuole sedersi, ma tu tieni duro, anche se te lo chiede un anziano, perché ricorda che stai facendo di tutto per difenderti dalla tua tristezza. Lo dice anche il comandamento: ama il prossimo tuo come te stesso, non più di te stesso. E quindi no, difendi come? Ma non più del tuo, non più di te stesso. Quindi prima vieni tu, poi a sua madre viene il tuo prossimo, che non sedere, sedere vicino a te per comunicare. Ti stiamo perdendo, Leonardo, ti stiamo perdendo. Devi ricollegarti velocemente, perché io non posso chiudere la puntata senza l'urlo di battaglia. Allora, quando ci scrive tra l'altro Claudia dicendo: quando torneranno le 4 mezz'ore, ci allungheremo fino alle 11, non lo so, presto succederà. Intanto, Leonardo, se ti sei ricollegato, apri la finestra e caccia il tuo urlo nella giungla per tutti. Anche lo spettacolo serve a qualcosa.